Io sono Enrico e insomma, grazie anche dello spazio qua ad Hack Meeting. Oggi, appunto, questo momento perché è importante? Perché in Rojava, come in tante altre parti del mondo, in tante altre latitudini, è in corso una rivoluzione. Una lotta che è cominciata negli anni 70, ma che negli ultimi 10-11 anni, in dei territori specifici nel nord-est della Siria, ha assunto un carattere assolutamente particolare, che appunto è un modello anche di ispirazione per tanti movimenti in tutto il mondo, ed è la lotta, che è nata come lotta di autodeterminazione del popolo curdo, ma è anche un po' improprio chiamarla così, perché non coinvolge solo la popolazione curda, ma coinvolge tantissime etnie, tantissime religioni differenti, che sotto il grande cappello, diciamo, di un sistema politico, sociale, economico, culturale, veramente che ha messo in discussione alla base quello che è il sistema in cui viviamo, patriarcale, capitalistico e via dicendo. Ha appunto assunto un nuovo modo di vivere, di relazionarsi tra di loro, di studiare, di organizzarsi, di tutto quello che possiamo immaginare a 360 gradi su tutto quello che riguarda la società. Quindi questo evento è importante a maggior ragione perché se ne sta parlando sempre meno, nonostante degli attacchi che questa rivoluzione vive da tanti anni, soprattutto dallo Stato turco. In quest'ultimo periodo se ne sta parlando meno e questo chiaramente fa preoccupare perché noi europei in primis abbiamo tutta una serie di responsabilità per quanto riguarda processi coloniali nel mondo, a maggior ragione per quanto riguarda quello che sta accadendo in Medio Oriente. Perché effettivamente avremo anche degli strumenti a nostra disposizione per poter veicolare il messaggio che il movimento curdo ci porta, per potergli dare visibilità, per poter esprimere una solidarietà che va al di là dei cortei, dei presidi, delle manifestazioni, ma anche qualcosa di un po' più profondo. E quindi era anche giusto provare a riparlarne senza dare per scontato che tutti e tutti, diciamo, partiamo dalla stessa base, quindi io proverò a dare anche alcune coordinate geografiche, alcune coordinate storiche, per intanto capire un attimino il contesto in cui siamo, di cosa stiamo parlando, e poi cercherò di essere ipersintetico, cosa che di base non sono, per provare a dare un po' più spazio al dibattito. Quindi inizio subito. Facciamo un attimino un tuffo nel passato. Appunto, sono alcune cartine che rappresentano quella che è stata l'evoluzione storica di quei territori. Qua è all'inizio del Novecento, quando ancora prima della Prima Guerra Mondiale avevamo solo un grande impero in Medio Oriente, che era l'Impero Ottomano. In questa zona qua, non so se si vede il cursore, sì, si vede meglio là. In questa zona qua c'è tutto quanto il Kurdistan, che era totalmente annesso quindi all'Impero Ottomano. È una regione che è appunto abitata prevalentemente da curdi, ma non solo. Che ora vediamo cosa è successo a livello anche storico e perché è partita come una lotta per l'autodeterminazione di questo popolo. Quindi successivamente alla Seconda Guerra Mondiale succede che si ridisegnano molti dei confini degli stati-nazione presenti in Medio Oriente, a seconda chiaramente degli interessi, a proposito di quello che dicevo prima, delle potenze coloniali europee, soprattutto Inghilterra e Francia. Quindi abbiamo Turchia, Siria, Iraq e Iran. La macchia gialla che vedete al centro è quello che sarebbe il Kurdistan. Chiaramente non possiamo immaginare dei confini ben precisi, disegnati con la lineetta a differenza, che so, della Siria, che è palesemente tirata con righello a un tavolino alle trattative di pace, ma è qualcosa che si radica nella storia e nella memoria di quei territori, di quel popolo. E da qua, diciamo, immediatamente si vede come questa regione viene spaccata e frammentata in quattro parti diverse. La parte maggioritaria è qua in Turchia, proprio a causa di questa frammentazione si innescono tutta una serie di conflitti interni agli stati-nazione che hanno sempre visto il popolo curdo perseguitato, con anche diversi tentativi di genocidi, deportazioni, torture e quant'altro. Da questo ragionamento, da questo anzi dati, da questo stato di fatto, alcune persone curde, soprattutto che abitavano in Turchia, si sono riunite e, partendo dal fatto, dall'analisi che il Kurdistan sostanzialmente fosse una colonia a tutti gli effetti, hanno deciso di intraprendere una lotta di liberazione del Kurdistan, un po' ispirandosi a quelli che erano i movimenti decoloniali del Novecento. Quindi l'idea iniziale era quella di avere uno Stato curdo, socialista, indipendente, con dei confini, con una propria amministrazione e via dicendo. Ma sempre partendo da questo stato di fatto, diciamo, si è evoluto quello che era il pensiero e la pratica del movimento rivoluzionario curdo. Perché non poteva essere lo stesso Stato, uno Stato curdo indipendente, che poteva veramente allora garantire la libertà al popolo curdo. Al contrario, il problema alla radice che viene rintracciato in tutta questa questione è proprio l'esistenza stessa dello Stato. E quindi si pongono il problema di come organizzare una società e tutti i territori che abita senza la presenza dello Stato così come noi lo conosciamo, ma fondandosi sostanzialmente sull'auto-organizzazione, sull'autogestione delle comunità locali attraverso un sistema che è stato chiamato confederalismo democratico, che è un po' complesso, io provo a renderlo semplice, quindi scusate in anticipo. Si basa su diversi livelli di organizzazione, di partecipazione alla vita, diciamo, della comunità. Alla base di questo sistema ci sono le comuni. Le comuni possono essere composte da 20 persone, da 300 persone, in base ai villaggi, in base ai quartieri. Quindi immaginiamo qua al CSU a Cartella che noi siamo una comune, ad esempio, noi ci riuniamo, capiamo quali sono i problemi, che prospettive dobbiamo dare a questo territorio, come organizzarci, che tipo di relazioni ci sono all'interno di questo territorio, che tipo di problemi appunto viviamo e autonomamente ci autogestiamo da questo punto di vista. E man mano, salendo, si sale una sorta di, che non è una gerarchia, perché non sono in posizione di valore uno è più importante dell'altro, ma si sale dai comuni, ai cantoni, alle regioni, quindi secondo uno schema verticale, non solo orizzontale. Tutto questo sistema democratico che fondamentalmente vede proprio la partecipazione delle comunità alla vita politica e sociale del territorio, a sostanzialmente riprendere le decisioni sui propri corpi e sui propri territori, si poggia fondamentalmente su dei pilastri. Appunto, uno è questo della democrazia diretta, della democrazia partecipata. Loro la chiamano proprio democrazia, che non ha nulla a che vedere con la nostra, anzi, cioè, hanno ridato lustro a questa parola che comunque ci dovrebbe già solo questo far ragionare. Ma altri due pilastri molto fondamentali, che uno è quello dell'ecologia, e quindi riorganizzare completamente non solo l'economia, ma veramente tutte le relazioni che si danno sul territorio in senso ecologico, in senso di non sfruttare le risorse del territorio, ma piuttosto arricchirle, potenziarle, immaginare delle relazioni con quello che è, diciamo, natura, che siano non di dominio, ma piuttosto di parità, di uno sguardo che guarda, cioè di uno sguardo che sia di unità rispetto al territorio, con tutte le diversità, chiaramente. Un altro pilastro fondamentale è l'autonomia delle donne. Nella rivoluzione che è in atto appunto nel Kurdistan, l'autonomia delle donne è un pilastro assolutamente fondamentale, che, diciamo, già contestualizzato rispetto a quello che è il contesto del Medio Oriente, assume una potenza di significato ancora più importante. Le donne vengono considerate, sono l'avanguardia del movimento, hanno degli spazi autonomi decisionali, degli spazi autonomi di vita, hanno la possibilità di auto-organizzarsi da questo punto di vista come meglio credono, ma esistono anche degli ambienti misti. Questo questo parte dal presupposto che non può esistere uno Stato, non può esistere lo sfruttamento di questo sistema se prima non esiste lo sfruttamento all'interno della società. E la donna viene considerata la prima colonia, la prima nazione colonizzata. Questo invece, in questa parte qua della Siria del Nord-Est, che è chiamata Rojava, che significa ovest in curdo, è dove si è stato istituzionalizzato, per così dire, su larga scala, il confederalismo democratico, che quindi si organizza secondo questi pilastri, che si organizza secondo questi valori, ma non è nemmeno l'unica esperienza territoriale, perché anche nell'Iraq esistono diverse esperienze come Shingal, dove non sono curdi ad organizzarsi secondo questi principi, ma una popolazione yezida, che è una religione antichissima, che viene però perseguitata per questo, e ci sono stati comunque stermini veramente agghiaccianti da parte dell'ISIS, dell'esercito iracheno, su questa popolazione, su altri campi profughi come a Makmur, che è stata un po' la culla del confederalismo democratico, diciamo, da dove è nato questo tipo di modello. Ora, prima parlavamo molto di più di quello che sta succedendo in Kurdistan, quando ancora c'era la paura dell'ISIS in Europa, gli attentati, se ne parlava costantemente. Poi questa cosa è scomparsa perché l'ISIS effettivamente sembrava una minaccia sconfitta, distrutta, ma a quale prezzo e chi l'ha fatto? Questo forse non ce lo siamo chiesti. Sono state proprio le truppe di autodifesa in Rojava, YPG, l'esercito, le forze siriane democratiche, che sul territorio si sono battute giorno per giorno contro l'avanzata dell'ISIS e che hanno sconfitto l'ISIS definitivamente, poi, per così dire, soprattutto nella città simbolo che è Kobane, che è diventata appunto simbolo della resistenza contro l'ISIS. Dicevo che non sono state sconfitte definitivamente perché esistono in realtà diverse cellule dormienti ancora sparse per la Siria, che sono in realtà alleate dello Stato turco, del governo di Erdogan. Lo Stato turco, come dicevo all'inizio, vuoi per interessi economici nell'area, vuoi anche per una guerra ideologica vera e propria, tutto l'interesse a distruggere sostanzialmente questo tipo di esperienza rivoluzionaria, avvalendosi di tutti i metodi possibili e immaginabili, da armi chimiche che in teoria dovrebbero essere bandite da convenzioni internazionali, appunto alleandosi, armando l'ISIS o altre cellule jihadiste, di cui in realtà noi faremo parte di una coalizione anti-ISIS, quindi utilizzando qualsiasi tipo di mezzo, ha sferrato 3 attacchi brutali. Con il primo ha conquistato questa parte qua di Afrin, dove ancora esiste una piccola resistenza del movimento rivoluzionario curdo in quest'area qua. Quando ha conquistato Afrin, hanno deciso bene di distruggere tutta la possibilità di vita in quel territorio, il che significa tagliare tutti gli alberi, rendere letteralmente non fertile il terreno e privare la possibilità delle persone di poter vivere e resistere in un territorio. Secondariamente ha attaccato e invaso questa parte qua attorno a Serekaniye, che è strategica perché esistono dei collegamenti, gli unici collegamenti più importanti, principali, che collegano i Rojava, e infine sta continuando ad attaccare da novembre scorso in maniera massiccia con droni, utilizzando le armi chimiche, nelle montagne del Kurdistan iracheno, dove c'è la guerriglia in questo momento, ma con droni, artiglieria pesante e sfruttando appunto le truppe di terra, che sono varie bande jihadiste assolutamente sregolate da questo punto di vista, cioè fanno letteralmente tutto quello che vogliono, utilizzandole più o meno sparse per tutta quest'area. Al momento esistono in quest'area qua, che si chiama Deresor, dei conflitti molto accesi proprio perché sono stati bombardati dei campi di detenzione dell'ISIS e sono stati fatti passare da questi canali qua attraverso l'Iraq, tante delle bande che vengono appunto utilizzate per indebolire da un fronte interno la rivoluzione curda. Ora, questo tipo di esperienza ci parla molto concretamente, al di là poi dell'ideologia, dei pilastri, tutte queste cose qua, ci parla molto concretamente del fatto che è possibile ad oggi organizzarsi tra persone, cioè comuni, non è che bisogna essere chissà chi, per poter prendere in mano la decisionalità sul proprio territorio. Ovviamente in un contesto estremamente difficile di guerra, di boicottaggio perché sono sotto embargo, della Turchia che sta costruendo le dighe per non far arrivare più l'acqua, quindi messi veramente in difficoltà, ma com'è che stanno riuscendo a tenere testa al secondo esercito della NATO? Perché esiste un radicamento e anche una convinzione in tutta la società, parliamo in tutti i Rojava circa di 5 milioni di abitanti, che è possibile non vivere secondo i dettami di uno Stato, secondo i dettami di imposizioni dall'alto, che vedono solamente i territori come sfruttati, i corpi come appunto martoriati, violentati e via dicendo. Questa esperienza ci parla anche del fatto che se organizzandoci a tutte le latitudini riusciamo a mettere in pratica una lotta costante, una messa in discussione anche costante delle nostre personalità, perché il nemico, quello che ad esempio loro dicono è il 95% del nemico è nella propria testa e il 5% lo vedi fuori sul campo di battaglia, perché esiste un lavoro costante di messa in discussione della mentalità, perché noi comunque siamo socializzati secondo uno schema patriarcale, secondo uno schema capitalistico, secondo uno schema che riproduciamo costantemente. E non è la rivoluzione che si fa con le armi, come spesso poi purtroppo un po' si scade in questi dibattiti, uno pensa bastano le armi per fare la rivoluzione, non è così. Serve veramente un lavoro costante di messa in discussione ed è fondamentale riuscire a non, diciamo, diffondere quella che poi è l'ideologia di quella che è la scelta di vita delle persone, 5 milioni di persone che si organizzano secondo il confederalismo democratico è, diciamo, fatto abbastanza rilevante perché è introiettata dalla società stessa questo portato qua. Cioè, è vero che esistono delle unità di autodifesa del popolo, ma è la popolazione stessa che si organizza. L'autodifesa non è solo quella militare, l'autodifesa prima di tutto è culturale, è sociale, è economica. Cioè, sottrarsi a quelle che sono le dipendenze poi, ad esempio, dei flussi di capitale. Cioè, quindi creare autonomia. E questo farlo non prevaricando, non creando un'imposizione a propria volta. Quindi non ricreando quelli che sono i confini territoriali dello Stato, non ricreando quelle che sono poi delle decisioni calate dall'alto. Questo sistema che provavo a descrivere prima, che si muove quindi su uno schema orizzontale di vari comuni che possono decidere sul proprio territorio e uno verticale che ha più una funzione di coordinamento, più una funzione, diciamo, esecutiva, è fondamentale per riuscire a coinvolgere tutta la società e mettere anche assieme quelle che sono assiri, turcmeni, curdi, arabi, tantissime popolazioni e tantissime etnie in un territorio in cui sono stati abituati invece a farsi la guerra per questo, è significativo comunque anche della potenza che ci sta dietro ed è significativo del fatto che se questa cosa non fosse stata attuabile, se questa cosa non viene praticata e se non ci fosse veramente uno spiraglio di libertà, anche al costo comunque di perdere la propria vita, è chiaro che le persone difficilmente combatterebbero per questo. Poi, vabbè, io intanto se ci sono dubbi, domande, cioè fermatemi serenamente, anzi, se qualcuno vuole dire qualcosa adesso. If you want to ask a question up until now, or why is it Vanessa? Vanessa? Why? Ah, una minaccia. No, why is it a menace for the government, Turkish or? why they are afraid about this? Chiedeva perché la rivoluzione in Kurdistan è una minaccia per il governo turco. Io rispondo in italiano, poi magari... Magari facciamo il contrario, che così vi guardate mentre le rispondi in inglese. Sì, sì. E poi ho un po' di difficoltà, okay. Ci posso okay, provare però. Allora, dici, vabbè, veramente. Glielo dico. Ok. Guardando questa cartina, vediamo come in realtà metà della Turchia è Kurdistan. Non è Turchia. Half of Turkey is Kurdistan, as you can see in the map, okay? La minaccia per il governo turco è quella della cosiddetta unità nazionale, chiaramente. The menace is that they unite and they found a new country. Mm-hmm. And so it's not Turkey anymore. It's not the money for Turkey, it's not the, you know, the territory of Turkey. Okay. Okay. Tra l'altro la parte curda della Turchia, come vedete, è anche la parte più fertile. Il Tigri, l'Eufrate. That part of Turkey is the most fertile. Mm. There's rivers, Tigri and Euphrates. Quindi ha un interesse strategico a mantenere il proprio dominio in quei territori. E a maggior ragione, oltre ad espanderli qua verso sud, a maggior ragione era di nuovo il lato ideologico che entra in campo. Una rivoluzione che parla di autonomia delle donne, una rivoluzione che parla di democrazia partecipata, di democrazia diretta, è una minaccia non solo per lo Stato turco, ma per tutti gli stati-nazioni del mondo. E loro sono consapevoli di questo. Per l'Italia, per la Francia, per l'Europa, per gli Stati Uniti, per tutti gli stati-nazioni del mondo che si fondano secondo appunto i principi dello Stato-nazione. Quindi il monopolio della forza, capitali e via dicendo. Quindi la minaccia fondamentale è che se questa rivoluzione si allarga, se riesce a fare breccia e a contaminare altri movimenti in tutto il mondo, soprattutto l'Europa, perché alle porte dell'Europa, e su questo appunto la preoccupazione è molto alta, è che si possa innescare lo stesso processo di messa in discussione, che la gente possa organizzarsi al cartella, svegliarsi un giorno e dire ma sai che c'è, ma forse lo Stato a noi non serve. Cioè perché ci serve lo Stato per organizzarci? Perché dobbiamo delegare tutti questi poteri, tutte queste idee? Perché dobbiamo farlo? Noi possiamo farlo, abbiamo il potere di farlo. E semplicemente mettendo in pratica poi questa cosa è un passaggio di messa in discussione molto forte, veramente rivoluzionario. No, tranquillo. C'era qualche altra domanda? Volevo chiedere questo. Ma in questa prospettiva di destrutturizzazione, no? In questa prospettiva dell'ideologia curda, no? Del confederalismo democratico, di destrutturazione di quello che è stato il fondamento, no? del sistema in cui noi viviamo, e quindi patriarcale, statale, capitalistico, e un'analisi profonda della storia, e quindi di un cambiamento, no? all'interno della storia umana. Mi pare di aver capito che forse è un'altra delle grandi forze, no? Non so se sono stata chiara nella domanda. Okay, ti mando questa assist. Senza girarci troppo attorno, no? Però riprendo anche un po' quello che proprio dicono i curdi. Esistono, la storia è come un fiume che poi a un certo punto si divide in due parti. Un corso di questo fiume è la storia degli oppressori, la storia degli stati, la storia del capitalismo, la storia del patriarcato. Un altro fiume è la storia delle resistenze, la storia della lotta, la storia della vita. Noi ci collochiamo all'interno di questo corso, all'interno di questo fiume qua. Loro non appunto rinnegano tutti i processi storici che ci sono stati, no? Anche di socialismo reale, dall'Unione Sovietica alle prime comuni cristiane, a tutto quello che possiamo immaginare. Attraverso uno studio proprio scientifico rigorosissimo della storia, sono riusciti anche a elaborare poi quella che è la prospettiva del confederalismo democratico. Però non è un punto di, cioè non è da vedere appunto come un punto di arrivo in sé, ma è uno studio costante, perché la storia, così come altri saperi che noi apprendiamo nelle scuole, nelle università, dalla società in generale, sono profondamente radicati in una mentalità patriarcale e capitalistica. Quindi quello che fanno è, appunto, perché dobbiamo metterci in discussione, dobbiamo destrutturare questa mentalità, ci serve imparare, cioè, all'interno di questo corso, all'interno di questo fiume della storia. E quindi, ad esempio, hanno fondato l'Accademia di Genealogy, che letteralmente significa scienza della donna, che è un'accademia che riprende quello che è stato il flusso della storia, così anche come magari lo apprendiamo noi all'interno dei nostri, diciamo, delle nostre scuole, ma studiandolo da quello che è stata la lotta al patriarcato, cioè ristudiando completamente quello che è stato il ruolo della donna, riscoprendo quelle che sono le radici vere della società naturale. Loro addirittura affondano le radici nel neolitico. Cioè qua, vabbè, era evidente nell'altra cartina, no? Quando in quinta elementare ci dicevano questa è la Mesopotamia, la terra tra il Tigre e l'Eufrate, loro vanno a rintracciare la storia del Neolitico per capire quali sono state le linee di dominio e lo scarto tra l'oppressione e come si viveva prima. E effettivamente il patriarcato ha una storia, lo Stato ha una storia, non è che sono piombati così dal nulla, non è come magari viene raccontato lo Stato c'è sempre stato, scusate il gioco di parole, e non pensiamo una vita al di là di questo, o al di là del patriarcato. Non è così. È stato proprio un progetto di ingegneria sociale costruire uno Stato. E loro, riscoprendo anche attraverso l'archeologia, che è una cosa che secondo me dovremmo implementare parecchio, soprattutto nei nostri territori, che esistono delle società naturali, sono esistite delle società naturali che avevano dei tratti ben distinti, erano delle società matricentriche, non patriarcali, il che significa non che era la donna a dominare sull'uomo, attenzione, significa piuttosto che all'interno della figura della donna, alla figura della donna, si reggeva tutto quello che era l'impianto sociale, ma era una figura di responsabilità, non una figura di dominio da questo punto di vista. Quindi ne veniva riconosciuta l'importanza, e attorno a questa si costruivano le comunità. Quello che è successo è, poi vabbè, c'è veramente uno studio che se ne potrebbe parlare per giorni, e non so nemmeno se io lo riuscirei a spiegare bene, è che proprio il passaggio dopo il Neolitico che si afferma un sistema di dominio patriarcale. E loro, studiando questi vari passaggi, provano a rintracciare allora quali sono i valori naturali della società che bisogna recuperare, e quindi quali sono i valori della società che noi dobbiamo praticare oggi. Perché non serve inventarseli di sana pianta, non serve stare qua a dire ma quali sono, qual è l'etica che ci guida ad oggi. Non è questo. La società è già orientata all'etica, la società è già orientata a dei valori ben precisi, che sceglie in base al proprio territorio, in base alla propria cultura. Ma lo Stato, attraverso appunto questo progetto di unificazione forzata, attraverso guerre, chiaramente perché gli Stati sono formati attraverso le guerre, strumentalizzando anche le religioni, strumentalizzando l'economia, sfruttando appunto le varie popolazioni, ha orientato la società verso altri valori, o disvalori, se li vogliamo chiamare meglio così, che si spingono sempre più verso l'accentramento, verso la centralizzazione del potere, dell'economia, e questo è proprio antisociale, per come lo definiscono loro, cioè questo non è il corso naturale della società. Quindi anche già attraverso un po' questa cosa, anche diciamo, non rendere mistica la presenza dello Stato, non darla per scontata, ma anche la possibilità che, come è stato costruito da dei gruppi ben precisi, è possibile abbatterlo. Per farlo, appunto, per tornare poi sempre alla domanda, è necessario ripercorrere comunque questa storia qua, attraverso la genealogy, ma anche attraverso in generale proprio accademie, i saperi che vengono in generale trasmessi, seguono sempre un processo di messa in discussione del patriarcato, del capitalismo, della mentalità statale. E io non so se è un po' preso, ok. Quindi in generale comunque è un lavoro costante che riguarda ogni settore della società da questo punto di vista. Poi avevo messo, sì, questa cartina che riguarda un po' gli attacchi di cui parlavo prima, perché il progetto della Turchia è proprio quello di spezzare la continuità territoriale che c'è nel Rojava, provando a isolarlo, così chiaramente poi è più facile distruggerlo. Aspetta. In your opinion, why Kurdish people are more able to get organized in a real democratic way. Sì. Chiedeva perché secondo me il popolo curdo è maggiormente capace di organizzarsi in maniera democratica. E è una domanda difficile. Io non penso che sia maggiormente capace rispetto ad altri popoli di organizzarsi in maniera democratica. Penso che ad oggi mi vado fermando? Solo un attimo più piano che intanto okay. Scrivo. Sì. Vai pure. Penso che ad oggi, per il contesto storico, culturale, geografico e così via, si è data questa opportunità al popolo curdo. E anche per la sua storia. Cioè, vivendo costantemente separati in quattro stati nazioni differenti, essendo perseguitati e via dicendo, hanno avuto, diciamo, è stato più immediato il nesso casuale tra qual è l'oppressione del proprio popolo, identificando nell'organizzazione dello Stato il problema. Cioè, è questo che li ha portati a un'organizzazione democratica, il fatto che, preservandosi in qualche maniera, sì, preservandosi anche la propria identità culturale, sono riusciti a mantenere, come dire, più intatti o meno contaminati, ecco, dall'ingerenza dello Stato e del sistema, i propri tratti democratici, della società naturale di cui parlavo prima. In Europa è più difficile perché noi siamo stati gli artefici degli stati-nazione, chiaramente. Abbiamo molto più lavoro da fare da questo punto di vista. Se pensiamo ai popoli del Chiapas, non è che sono meno capaci. Si organizzano democraticamente, pure loro, in maniera diversa, a seconda appunto di quello che è il loro contesto. Ma anche in Africa o nel sud-est asiatico siamo pieni di esperienze di popoli che si autodeterminano in maniera democratica. Non so se... Sì, vai. Vabbè, approfitto di... Ok. No, volevo chiedere appunto su questo discorso, secondo te, quali pratiche del confederalismo democratico sono più fattibili da attuare nei nostri territori? Perché, ad esempio, faccio parte di Noma di Meno Messina, noi insieme ad Elisa, noi spesso parliamo di decostruzione patriarcale, di pensiamo a percorsi, reti femministe, creare spazio autogestito, ovviamente anche questo spazio è uno spazio autogestito, cerchiamo di spingere le persone a riavere, tra virgolette, quel senso di comunità che un po' si è perso nel libero individualismo della nostra società. E di conseguenza cioè, sempre ci chiediamo quali altri strumenti possiamo avere per coinvolgere sempre di più le persone. Ad esempio, adesso noi stiamo facendo una grande mobilitazione sull'onda, diciamo, dello sdegno che c'è stato per quello che è noto come lo stupro di Palermo. In realtà gli stupri di gruppo ci sono sempre stati e sono sempre stati tantissimi. Però è come se l'opinione pubblica avesse avuto una sorta di click quando è uscita questa notizia, c'è stato più rumore, tra virgolette, del solito, e noi abbiamo avuto l'occasione di creare una rete con i nodi siciliani e anche con i nodi reggini, e cerchiamo di portarla avanti in questo modo, anche tramite il web, ma anche cercando di andare sempre più in tutti i quartieri e nelle periferie. Però effettivamente è come se mancasse poi la possibilità di uscire, diciamo, dalla bolla di quelle persone che comunque già di per sé sono interessate al sociale e all'attivismo. Parlare oggi della rivoluzione in Kurdistan ci deve dare un po' gli spunti, dire cosa possiamo trarne di utile appunto per noi, cosa invece vogliamo mettere a critica, cosa non ci convince, o anche, non so, come ci mettiamo in contatto, come riusciamo a creare delle infrastrutture, dei ponti tra noi e il movimento rivoluzionario curdo, come riusciamo a supportarli. Ma non perché dobbiamo essere gli europei che danno aiuto al popolo del Medio Oriente, ma come riusciamo appunto a supportare la vita e la possibilità che continui una rivoluzione nel mondo, di esempio. Quindi anche tutti questi spunti e anche la tua domanda in realtà sono molto molto aperti, e io un po', cioè, quello che penso, anche rielaborato da quando siamo tornati dal Rojava, nonostante non c'è stato purtroppo tanto modo di esperire direttamente là, è il livello di, innanzitutto, di organizzazione senza la pretesa però di dover evangelizzare nessuno. All'interno di questi territori vivono persone che non sposano il confederalismo democratico, che preferivano vivere secondo il regime di Assad. Però lo sforzo costante dei compagni e delle compagne giù è quello di coinvolgerle all'interno dei processi decisionali, quindi comunque uno sforzo costante a creare quella comunità politica, a non definirla secondo anche quelle che possono essere delle comodità o delle affinità, ma sapendo che in quanto anche abitanti di un territorio devono avere, diciamo, quello stesso trattamento alla pari. Poi è una loro scelta se partecipare alla vita politica o meno, ma non per questo, ecco, vengono emarginati. Poi, vabbè, esiste un livello molto banale che sono stati costretti a usare, chiaramente, l'autodifesa armata. Però mentre facevi la domanda mi veniva da sorridere, perché pensavo un momento con delle compagne zapatiste, quando hanno fatto il giro in Europa, che gli abbiamo posto la stessa domanda, e una compagna ci ha risposto: luce armata. E noi: sì, ma com'è il processo che fa? Mucha luce armata. Ok, beh, sostanzialmente anche cioè, perché io poi... Una compagna zapatista, sempre, quando gli abbiamo chiesto come si fa a creare comunità, unione, lui ha detto: ma la comunità c'è già. Esattamente. Vabbè, un'altra visione completamente diversa dalla nostra, palese. E questo per dire, cioè, io mi sento anche in difficoltà, perché magari a parlare anche un po' di come il movimento delle donne lavora, mi sento in difficoltà per ovvi motivi. Cioè, in generale, ad esempio, il movimento curdo non lo fa, che è un uomo solo a parlare, né tantomeno a parlare di questo. Però siamo in Europa, infatti, non sono parte del movimento curdo, quindi per quello che... Posso per quello intervenire un attimo? Sì, se volevo anche, cioè, almeno sul lavoro, ad esempio, che abbiamo anche visto in Rojava, cioè, è chiaro che è vero anche che sul livello, ad esempio, della lotta armata, l'uomo in generale, è anche vero che per decostruire il proprio privilegio Non è vero, ecco, che lo fa volontariamente, che ha gli strumenti per farlo, non è vero che siamo in grado, ecco, di auto, non so, purificarci da chissà che cosa, ma serve un lavoro costante e soprattutto trainato dal movimento delle donne. E poi, Rosy, se vuoi aggiungere tu. No, scusate se intervengo, sembra, però allora io faccio parte di Genealogy, che non è ormai soltanto una struttura o comunque una prospettiva che appartiene esclusivamente al movimento delle donne curde, ma uno dei grandi cambiamenti, del grande lavoro che si sta facendo e che quindi anche, come dire, rende importante, importantissima la continuità e la possibilità che il Rojava e altre zone del Kurdistan continuano ad avere una prospettiva rivoluzionaria, però l'idea che c'è dietro è che per destrutturare il sistema così com'è deve cambiare il mondo e quindi una nuova prospettiva internazionalista. E quindi la costruzione di un confederalismo democratico, di un confederalismo democratico delle donne, che non è soltanto in Medio Oriente o nel Kurdistan, ma che riguarda il mondo intero. La nuova prospettiva internazionalista è proprio questa, cioè provare in maniera, e qua è ovviamente la grande difficoltà, in maniera orizzontale, in maniera senza che nessuno, nessuna organizzazione, nessuna popolazione, come dire, mette il cappello o crei, no? Di nuovo una struttura di dominio e di potere, però provare proprio a lavorare insieme e cioè delle grandi cose che loro indicano, come diceva Enrico, per destrutturare prima di tutto dentro di noi le scorie del patriarcato, del capitalismo e dello Stato, è con la formazione. E quindi ci sono, noi li chiamiamo strumenti, è una cosa un po' appunto ancora una volta patriarcale, no? Perché abbiamo questa necessità di individuare, di categorizzare, di come dire, dare una razionalità, no? A volte a creare degli schemi. Però in effetti loro ci forniscono più un impianto, no? Ideologico, che non è l'ideologia come noi la immaginiamo, siamo abituati e quindi anche a respingerla, no? Perché la vediamo come un'ennesima sovrastruttura di potere. Ma è un sistema, no? Un sistema di pensiero, un sistema di elementi che ci danno la possibilità di agire come da migliaia di anni non agiamo più, cioè di nuovo determinando la nostra vita, cercando di dare soluzione ai nostri problemi senza delegare a nessuno, impegnandoci politicamente, che vuol dire politicamente proprio alla greca, no? Avendo cura delle comunità in cui siamo inserite. Questo a partire proprio dalle donne. Per cui, se per esempio in genealogy, no? Genealogy è anche tanta ricerca. Allora, cioè, a partire dalle voglie anche che ciascuno individualmente ha come persona, lavorare in propri campi, no? Di azione, che però poi, se si riesce, li si coordina, li si mette insieme, si fa confederazione. Ecco, il confederalismo è su tutti gli aspetti, non soltanto su quel piano politico, no? O amministrativo che noi pensiamo. Scusate, mi sono dilungata. Io aggiungo solo una cosa al volo, che tra quelli che noi chiamiamo strumenti, all'interno di questo impianto, un meccanismo che hanno adottato appunto con questa nuova prospettiva del confederalismo democratico è quello di critica e autocritica. Critica e autocritica è un, diciamo, un meccanismo, anche questo, trasversale a tutta la società, che di solito avviene negli ambiti, diciamo, più militanti, ma non solo, e e derivava però, diciamo, è iniziato negli ambiti militari, all'interno della guerriglia. Questo per, e non è anche questo, non è un caso, sostanzialmente una volta che facciamo parte della stessa comunità politica e che esista anche un rapporto di fiducia tra di noi, no? Ad esempio combattiamo uno fianco all'altra, o viviamo l'uno fianco all'altra, o ci organizziamo, studiamo uno fianco all'altra, c'è anche questo tipo di fiducia per cui io posso, diciamo, tu puoi criticare me per un atteggiamento patriarcale che magari io ho avuto, e io mi devo assumere la critica. Al massimo, se io non la capisco sul momento, ok, me la metto in tasca, poi magari la capisco dopo 5 anni, dico, ah, ecco cosa voleva dire quella compagna, e me lo ricordo. Però loro vedono la critica come un dono, non come un attacco, come siamo abituati invece a vederla anche noi. Cioè, non è un attacco che io faccio per delegittimarti o per umiliarti o per mettermi in una posizione di superiorità rispetto a te, ma è proprio un dono quello che ti faccio, il dono di combattere quella parte di te stesso che è, di nuovo, statale, patriarcale e via dicendo. E io la devo ricevere così, e posso anche io fare autocritica, posso anche ragionare io su dei miei comportamenti, su dei miei pensieri, esporli, parlarne collettivamente. Critica e autocritica avvengono sempre in forme collettive, ma individuali. E chiedere aiuto, anche questo, non è che c'è la vergogna, no, del chiedere aiuto, del io posso fare tutto, io non ho problemi, quello e quant'altro. Non esiste questa cosa. Esistono dei problemi che non sono miei, ma sono collettivi, e tutte le critiche che io posso ricevere o che posso anche farmi possono essere d'aiuto e di spunto per le altre persone che sono attorno a me. Per questo anche si fa in forma collettiva. Questo in realtà è uno strumento, diciamo, anche qua veramente potente, perché è proprio il passaggio per riuscire effettivamente a tenere traccia assieme, ragionare assieme e poi metterlo in pratica, quella che è la trasformazione della propria personalità, perché bisogna anche trasformare appunto la propria personalità in senso rivoluzionario, se, per non continuare a riprodurre tutti gli atteggiamenti problematici che riproduciamo ogni giorno. Anche se magari non ce ne rendiamo conto, o anche sì, però questo è fondamentale pure. Se ci sono altre domande, dubbi, perplessità, critiche? Io volevo partire da un'osservazione e poi fare una domanda. Allora, secondo me, se noi guardiamo la nostra società per quello che è, se non mi sentite, sì, pensavo si sentisse, allora, per quello, se analizziamo la nostra società, anzi il modo in cui è organizzato lo Stato, le regioni, i comuni e compagnia bella, abbiamo grosso modo due facoltà, poteri, no? Quello legislativo, che generalmente è in capo al Parlamento, e non sto qua a sindacare o a ragionare, perché è veramente un argomento molto vasto su il metodo con cui si sceglie chi rappresenta, come funziona. È un campo molto vasto. Poi ci sono tutta un'altra serie di come chiamarle, quello che viene chiamato potere esecutivo, che nel come viene descritto lo Stato italiano è quello del governo, però se ci pensiamo in piccolo è anche quello che avviene in una regione, in una provincia, in un comune, e che secondo me in realtà il termine più appropriato è sistema amministrativo. Ora io mi domando, la nostra società, se quanto ha senso e come si può stravolgerla, si deve stravolgere questo impianto organizzativo della società. Secondo me il potere più importante per certi aspetti è quello amministrativo, che significa banalmente una regione dove passa una strada, c'è quanta necessità c'è di avere corrente, dove mettere, cosa produce corrente, che cos'è questa cosa che produce corrente, è una centrale a gas, è una centrale, sono pannelli solari, sono campi eolici, è una centrale a carbone, quello che è. Secondo me, allora, andando sul ragionamento nazionale, le leggi dovrebbero essere uguali per tutti, poi purtroppo è un discorso molto ampio, quindi capire come si crea il sistema che crea le leggi.